Voci di piccola impresa. Idee anticrisi di Anna Marino. Benvenuti a Voci di piccola impresa, idee anticrisi. Transformers, diciamo così. La puntata di oggi infatti è dedicata agli imprenditori che sanno trasformarsi e rivoluzionare mercati tradizionali come quello nautico e automobilistico. Ma parleremo anche dell'iniziativa ING Direct per le startup. Prendi parte al cambiamento, si chiama così. Avete tempo fino al 17 dicembre per aderire e vi spiegheremo come. La prima trasformazione geniale è di Wider, un'azienda nautica nata nel marzo 2010 da un'idea di Tilly Antonelli, fondatore, con sede a Castelvecchio di Monteporzio, nelle Marche. Wider progetta, produce, commercializza imbarcazioni di tipo Open Day Cruiser. Il suo primo progetto Wider 42 è uno yacht assolutamente innovativo, distinto da una caratteristica mai vista prima. La barca infatti è in grado di allargarsi sull'acqua tramite un meccanismo brevettato che le permette di raddoppiare lo spazio a bordo in soli 12 secondi. Tilly Antonelli è la voce della sua idea Transformers. Sono stati tre i momenti fondamentali e i motivi che mi hanno spinto a realizzare questo progetto. Il primo sicuramente è la voglia di mettere sul mercato qualcosa che non esistesse ancora in un panorama abbastanza piatto di novità rivolte allo yacht. Il secondo motivo è un'esperienza personale su una mia barca piuttosto piccola, il cui spazio non era mai sufficiente. E il terzo, quello più banale, l'ho mutuato dalla frequentazione di autodromi e corse dove esistono questi magnifici motorhome che si allargano magicamente e raddoppiano lo spazio. Ecco, Wider che cos'è? Se può dare un'idea, un'occhiata, una sintesi in pochi secondi, così come avviene la trasformazione? Barca da giorno, un grosso giocattolo per trascorrere una giornata in mare e all'insegna dello spazio e della stabilità, con un meccanismo elettrico e pneumatico. Le due fiancate si traslano verso l'esterno e simultaneamente altre due porzioni, due galleggianti, si immergono in acqua, quindi la parte superiore aumenta la superficie vivibile del ponte di coperta. Per dare un esempio, la barca è in navigazione a una larghezza di 3,50 m, quando invece si ferma e si allarga diventa 6,60 m, quindi 6,60 m in acqua danno una stabilità incredibile a questo spazio maggiore accumulato. Voi però nel vostro percorso di realizzazione di questa idea certo non vi siete rilassati, perché avete nel tempo maturato squadra, esperienza, competenza, aiuti, che vogliamo chiedervi quali sono stati e come avete fatto a fare perno per raggiungere questa innovazione importante, soprattutto in un momento di crisi. Il mio background, essendo stato il fondatore di Pershing, che è un brand che nel campo dello yachting internazionale ha una sua posizione ben precisa, è stato sicuramente il motivo per cui questo progetto ha visto la luce in breve tempo. La genesi è durata poco più di 6 mesi per poi concretizzarla nella costruzione di modelli, stampi e quindi avere anche la barca intera provabile nell'arco di 12 mesi, quindi abbastanza rapido come progetto e come esecuzione dello stesso. Ecco, il Moro di Venezia, se lo ricorda? Andiamo un po' indietro nel tempo, comunque è sicuramente stata una base formativa importantissima. Quasi 10 anni passati nell'equipaggio di Ravenna, io sono originario di Ravenna, mi hanno sicuramente formato, accrescendo la mia naturale passione per il mare e anche la vicinanza con un personaggio come Raul Gardini sicuramente mi ha aperto più parti del cervello rispetto a non averlo conosciuto, insomma. Quali altre leve hanno aiutato la vostra impresa ad arrivare a innovazioni molto particolari come questa barca trasformabile che trasforma i sogni? Ma sicuramente il territorio che vivo e frequento e nel quale lavoriamo, che è quello marchigiano, più precisamente la zona limitrofa a Fano, è carico di esperienza, di maestranze qualificate per tutto l'indotto ci sono a disposizione delle tecnologie specifiche delle costruzioni in composito, e questo è sicuramente stato molto facilitante per avere il progetto ultimato in un tempo piuttosto breve. Altra trasformazione geniale, la AV Automotive SRL è un'azienda giovane e dinamica nata, per così dire, in montagna. La punta di diamante della società è Tilti, un sistema di ribaltamento espressamente progettato e sviluppato per l'utilizzo sui pick-up, che normalmente nasce con il cassone fisso. Tilti consente una trasformazione radicale una volta installato. È sufficiente premere un tasto sul telecomando per ribaltare e scaricare dal cassone del pick-up fino a 1600 kg di materiale. Fulvio Merlo spiega quanto è utile la sua idea Transformer. Le persone che collaborano con me in azienda hanno avuto un'intuizione che è nata fondamentalmente da una necessità sul territorio. Noi applichiamo questo concetto di ribaltabile sui pick-up. Pick-up perché sono fondamentalmente 4x4 e lavorando in montagna o nelle zone collinari è il mezzo più comodo e più, se vogliamo, anche economico. E il fatto di farlo diventare ribaltabile, a maggior ragione, va a sostituire in qualche maniera i trattori, piuttosto che, e da qui è nata un po' l'intuizione di fare qualcosa che sia molto utile, per cui è molto funzionale, e utilizzando la cassa originale lo si lascia esteticamente molto, molto piacevole, cosa che invece oggi esistono sul mercato dei prodotti che vanno a sostituire la cassa mettendo una cassa in alluminio che è oggettivamente molto brutta. Per cui abbiamo avuto questo intuito dal punto di vista funzionale e estetico allo stesso tempo. Un'idea agile che parte dalla realtà è un'idea anticrisi, perché deve funzionare in un momento in cui le difficoltà sono tante, soprattutto quelle economiche. Come avete fatto e quali sono state le leve che vi hanno aiutato? Ma oggettivamente l'idea è nata indipendentemente dal contesto di crisi generale, poi evidentemente da imprenditore si impatta su quelle che sono le condizioni al contorno, per cui anche la crisi, e sulla crisi bisogna cercare di vincere questo momento, e da qui possono esserci le varie idee su come affrontare questo momento. Dal nostro punto di vista, e la vera cambio di marcia che abbiamo fatto è stato nel cercare di cambiare il modello di business, di portarci su un contesto internazionale e soprattutto di un po' come i salmoni risalire la china, per cui noi oggi proponiamo il nostro kit certamente ai privati come li facevamo come prima, ma fondamentalmente agli importatori europei di pick-up, proprio per cercare di aumentare i volumi ed espandere queste, chiamiamole, micro nicchie che altrimenti in una condizione locale o regionale non avrebbero ragione di esistere. Sicuramente a livello di network noi abbiamo la necessità di interfacciarci un po' con tutte, qui da una parte ci appoggiamo a quelle che ognuno di noi, i propri network personali, oltre al fatto magari di spingere ad identificare proprio i vari player a livello europeo o internazionali e utilizzando tutti i canali possibili. A maggior ragione io, arrivando da scuola tra virgolette americana, perché ho lavorato per aziende americane per molto tempo, loro dedicano, gli americani, molto tempo al network, e questo è fondamentale proprio perché aiutano sia il business sia la carriera personale di ciascuno di noi. Competenze e soldi come sono arrivati? Qui mi permetto di dire che se l'idea è buona, normalmente recuperare quattrini è sì difficile, ma non è impossibile. Diversamente, se l'idea non è buona, recuperare quattrini è assolutamente impossibile. Ad oggi, per esempio, siamo in parte in autofinanziamento, intanto abbiamo anche un finanziamento attraverso le banche. Qui devo dire che il sistema italiano, criticato da molti, in realtà, se faccio una comparazione con per esempio un modello svizzero, devo dire che quello italiano è molto più aperto. E ora trasformerete la vostra vita. Attenzione, avete tempo fino al 17 dicembre per aderire alla grandissima opportunità del progetto Prendi parte al cambiamento di ING Direct, prima banca online in Italia, in collaborazione con H Farm Venture Incubator, che opera a livello internazionale a supporto delle startup. Basta caricare il progetto su www.prendipartealcambiamento.it. L'iniziativa premia con 100.000 euro e poi supporta la startup italiana più innovativa. Già pervenuti più di 430 progetti in tre mesi, soprattutto legati al sociale e all'ambiente, sfruttando la combinazione tra web, mobile e nuovi media. 5 le categorie: arte, cultura, moda e design, cucina e alimentazione, formazione e informazione, ambiente e sociale. Il progetto vincitore verrà presentato il 24 gennaio 2013 a Milano. L'11 dicembre ci sarà l'ultimo Storm in Pizza per gli start-upper che presentano a giuria e pubblico la loro idea. Vi vogliamo raccontare l'esperienza di Roma, grazie alla testimonianza di chi c'era. Nextstyler.com, l'idea con cui la moda diventa social nel solco del Made in Italy. È un brand di moda che lancia stilisti emergenti. Ecco come ha vissuto lo Storm in Pizza di ING Direct Mary Palomba, co-founder di Nextstyler. L'idea è nata un pomeriggio, eravamo io e il mio socio Maurizio Palumbo, venivamo da un'esperienza di 7 anni nel campo della comunicazione e della pubblicità legate alla moda. Lavoravamo in proprio da un bel po', quindi avevamo deciso di iniziare a dar vita a una startup. L'idea che ci è venuta, insomma, era quella di dare una mano agli stilisti emergenti ad iniziare le proprie carriere, perché durante il nostro percorso avevamo notato un grosso disagio da parte degli stilisti nel intraprendere le proprie carriere. Quanti anni avete? Che cosa, ovviamente, gli stilisti sono stilisti di che età e soprattutto che cosa consiste l'idea? Come fate a dare una mano? Allora, io ho 35 anni, Maurizio ne ha 28. In pratica Nextstyle funziona così: noi diciamo dei contest ispirati ai fashion trend più attuali. Gli stilisti vi partecipano caricando dei bozzetti sul sito che vengono votati dalla community, analizzati da una giuria. E sai, perché bisogna fare comunque un'analisi di fattibilità tecnica e verificare se sono in linea con i trend del mercato, e quindi i stilisti, insomma, selezionati vengono poi, i loro bozzetti vengono poi messi in produzione, insomma, prodotti attraverso delle partnership con aziende italiane. Quindi noi facciamo esclusivamente Made in Italy. Ovviamente lo stilista ha tanta visibilità, perché per loro è molto importante anche questo, e in più ha un guadagno di una percentuale sulle vendite. Chi vi ha aiutato? Quali sono state le vostre leve e soprattutto la vostra esperienza Storm in Pizza? Noi nel maggio del 2011, quando poi alla fine è stata fondata la startup, siamo stati selezionati dall'incubatore romano Labs, fondato da Luigi Capello. Quindi abbiamo fatto i 6 mesi di incubazione e abbiamo dato proprio vita alle prime fasi dell'azienda. Poi abbiamo vinto un premio come miglior startup con Wind Business Factor, insomma le cose poi sono andate sempre meglio. Ecco, per quanto riguarda invece l'esperienza di Storm in Pizza, ING Direct, perché? Sì, allora in pratica abbiamo fatto una specie di presentazione e abbiamo raccontato le varie fasi dell'idea, come è nata, tutto il percorso dell'incubazione, insomma i vari premi e a che punto eravamo con l'impresa. Poi il pubblico ci ha fatto delle domande per avere dei chiarimenti anche, sai, sull'aspetto della produzione, degli abiti, quindi anche più nel particolare rispetto anche soltanto, insomma, a discutere in merito della startup, voglio dire, anche in merito alle collezioni. È stato molto interessante perché poi in effetti sono eventi insomma in cui si può fare molto networking per raccogliere pareri, anche chiacchierando, sai, possono venire fuori tanti spunti.